Friuli nel mondo, 104esima trasmissione dedicata agli emigrati, Gotis di Rosade. Vogliamo dedicarvi, cari amici in ascolto, una fiorita di villotte che cantano la rugiada del mattino, le notti stellate, le serenate alla bella, gli uccelli canterini, i fiori profumati e i limpidi ruscelli. Canti di primavera, dunque, canti dell'anima del nostro popolo, canti che confermano la poesia di questa nostra terra friulana. Questa rapsodia di villotte popolari, elaborata da Cesare Augusto Seghizzi, ha appunto per titolo Gotis di Rosade. Tra la la la la. di Arturo Zardini, su testo di Pietro Zorutti, ascoltate questa Gnot di Avril, ispirata ad un profondo senso di pace e di serenità. Il Don de Viole è un'amorosa villotta di Pietro Zorutti, musicata da Arturo Zardini. del maestro secondo del Bianco, eccovi questa graziosa serenata dal titolo Gnot d'Inchant. A chiusura di questa primaverile trasmissione vogliate ascoltare di Carlo Conti la Serenade di Primavere, piena di grazia e di sentimento. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari. Ha cantato il coro di Ruda, diretto da Secondo Del Bianco. Solisti Luigi Spangaro e Marino Scarelli.